2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 14 marzo 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024 e radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet. Come sempre vi consigliamo di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Tutte le informazioni sono online per scaricare automaticamente oppure manualmente attraverso software dedicati o anche attraverso il vostro programma di navigazione, il vostro browser, automaticamente o manualmente, dicevo, il file MP3 della nostra trasmissione per poterlo poi riascoltare quando preferite. Ci sono alcune notizie interessanti della settimana. Oggi vi ricordo che parleremo di netbooks, un argomento molto interessante perché i netbooks sostengono le vendite nel mondo dei computer portatili, quindi ne parleremo nella seconda parte. Nella prima parte, tra poco, un approfondimento sui micropagamenti e la tecnologia che permette l'arrivo dei micropagamenti anche in Italia, con una sperimentazione che è partita tra la Romagna e le Marche. La Apple conferma il nuovo corso con una comunicazione che si concentra sul sito internet e negli Apple Store. Sapete che Apple ha deciso di non fare più grandi eventi, ma di comunicare le novità attraverso appunto sito e negozi. Questa settimana la Mela ha lanciato il nuovo iPod Shuffle, ancora più piccolino, con una novità interessante che si chiama VoiceOver, ovvero grazie alla sintesi vocale, al cosiddetto text-to-speech, cioè la capacità di riconoscere il testo, di trasformarlo in voce sintetica, questo nuovo iPod parla e alla pressione di un tasto dice, ad esempio, quale brano si sta ascoltando. Ecco, quello che stiamo ascoltando in sottofondo è un esempio della voce che si sente schiacciando questo piccolo tasto sul filo che collega le cuffie all'iPod, che ci suggerisce, ci dice anche la durata della canzone, la durata delle batterie, anche il titolo di una compilation. Playlist jogging. Essendo lo shuffle senza display, è sicuramente una novità utile e interessante. C'è un'altra notizia che riguarda Apple, si tratta di una indiscrezione secondo cui la società californiana starebbe lavorando su un netbook con schermo sensibile al tocco, con la stessa tecnologia usata sull'iPhone e sull'iPod Touch. L'Apple ha infatti firmato un contratto con la taiwanese WinTech per la fornitura di schermi da 10 pollici. Il piccolo portatile potrebbe arrivare in autunno. E come dicevo, i netbook sono uno dei fenomeni del momento, a questo dedicheremo la seconda parte di 2024. Adesso ci spostiamo in Giappone, da oggi i passeggeri del mitico Shinkansen, il treno veloce giapponese, potranno utilizzare anche internet a bordo del treno. Il servizio si chiama Hotspot Express, ha un abbonamento mensile che costa 819 yen, molto poco perché sono circa 6,5 euro. Questo servizio non è una novità assoluta, forse qualcuno ricorderà che nel marzo dello scorso anno, a 2024, abbiamo parlato del lancio commerciale di un analogo sistema attivo su alcuni treni TGV francesi. Il servizio funziona in maniera analoga a quello giapponese e ricordiamo anche che una sperimentazione di questo tipo era partita parecchi anni fa in Italia, una sperimentazione portata avanti da Trenitalia, che purtroppo l'ha abbandonata e attualmente questo progetto è stato archiviato, chissà che nei prossimi anni non venga ripescato. Quindi eravamo sicuramente all'avanguardia per portare internet a bordo di un treno. Nel caso francese, anche nel caso giapponese, a bordo della carrozza c'è un hotspot wifi al quale i passeggeri possono collegarsi, mentre il treno a sua volta si collega ad internet via satellite o via terra. La più grande differenza sono i prezzi, e la differenza è piuttosto elevata perché sulla linea del Thalys, che è una delle linee del TGV francese, il servizio costa 13 euro per un solo viaggio, quindi tempo illimitato ma per il viaggio, oppure 6,5 euro per un'ora di connessione, che quindi corrisponde allo stesso prezzo che in Giappone si paga invece per un mese. Fra le numerose differenze tra i mercati occidentali e quello giapponese, sempre in tema di tecnologia, c'è anche l'uso dei motori di ricerca su internet. Mentre Google, lo sappiamo bene, è numero uno pressoché ovunque in molti mercati del mondo, in Giappone è Yahoo ad avere la fetta di mercato più grande con il 51% contro il 38% di Google. Questa settimana Nintendo, e rimaniamo così in Giappone, ha messo a segno un altro record: sono state consegnate 100 milioni di console portatili Nintendo DS, quindi è arrivata la 100 milionesima. Il 3 aprile arriverà anche, lo ricordiamo, in Europa la nuova DSi, che ha tra le caratteristiche due fotocamere digitali integrate e anche un microfono per registrare, insomma una console innovativa e più potente della DS attuale. Adesso torniamo in Italia, la notizia riguarda il nostro paese, soprattutto lo sviluppo della banda larga e della rete del futuro. Francesco Caio, al quale il governo ha affidato il compito di proporre un piano per lo sviluppo della rete, ha consegnato al sottosegretario allo sviluppo economico con delega alle telecomunicazioni Paolo Romani un rapporto intitolato Opzioni di politica industriale per la banda larga. Un rapporto di un centinaio di pagine che dovrà ora essere esaminato dal governo, ne riparleremo anche a 2024, parleremo dello sviluppo della banda larga in Italia, il tema spesso viene confuso, comunque viene chiamato con un nome molto semplice che è Next Generation Network, quindi rete di nuova generazione, ne parleremo, dicevo, presto, magari anche speriamo con Francesco Caio direttamente. Da martedì prossimo, dal 17 marzo, Air France comincerà a sperimentare sulla tratta Parigi-Amsterdam un nuovo sistema per velocizzare le procedure di check-in. 1500 passeggeri, tra i più fedeli su questa rotta, cominceranno ad usare le impronte digitali per essere identificati e salire a bordo più velocemente. Quindi il check-in verrà fatto con l'impronta digitale. C'è un altro interessante test che riguarda invece i pagamenti elettronici, e così arriviamo al primo tema che vogliamo approfondire nella nostra puntata oggi. La tecnologia ha spinto negli ultimi anni lo sviluppo di sistemi di pagamento sempre più efficienti, veloci, sicuri, ma in alcuni casi, lo sapete molto bene, i soldi di carta e di metallo rimangono ancora i più veloci. C'è però una novità che potrebbe fare cadere anche questa, chiamiamola, barriera. Un sistema rapido e intuitivo come i soldi, ma elettronico, con tutti i vantaggi che questo comporta. Questo test di cui parleremo oggi coinvolge 5.400 carte, quindi almeno altrettante persone che possono fare acquisti in 150 punti vendita nei comuni di Pesaro, Fano e Gabicce Mare, quindi siamo sul confine tra le Marche e la Romagna. Un progetto guidato da Banca Marche, al quale partecipano una serie di partner tecnologici, tra questi c'è anche Quercia Software, una società specializzata nei sistemi di pagamento. Saluto Fausto Bolognini, che è l'amministratore delegato della società. Benvenuto a 2024. Grazie. Qua i termini da citare, poi li spiegheremo e spiegheremo di che cosa stiamo parlando, sono micropagamento, che è un aspetto importante di questa sperimentazione, di uno sviluppo che vedremo anche nei prossimi anni, e i sistemi senza contatto. Gli esperti li chiamano contactless. Molti dei nostri ascoltatori ricorderanno che ci siamo occupati anche di sistemi RFID, quindi sistemi che a sfioramento riescono a capire che cosa un chip trasmette, ma anche di questo spiegheremo. Dunque, Bolognini, questo sistema si chiama PagoVelox. Sostanzialmente di che cosa si tratta? Ma si tratta di una carta contactless, quindi una carta che, grazie alla tecnologia RFID, appunto una tecnologia che non prevede la necessità di contatto fra la carta, di stringere la banda o di inserire il chip, di poter effettuare un pagamento sicuro con una tecnologia di sicurezza al massimo livello oggi disponibile, permette di pagare in modo molto veloce. In un secondo, in una frazione di secondo, si effettua un pagamento senza la necessità di avere una connessione centrale online, e questo nell'ottica appunto di sostituire la moneta, sostituire il contante. Non c'è più la necessità neanche di avere la stampa dello scontrino, perché la sicurezza di per sé è sicura e, diciamo, tracciata, e quindi in quanto tale effettivamente l'utilizzo di questa carta sostituisce il contante, la moneta, nelle situazioni di piccoli pagamenti. Quindi praticamente noi abbiamo in mano una carta che assomiglia ad un bancomat o ad una carta di credito, certo, né più né meno, che possiamo naturalmente, immagino, utilizzare anche come bancomat o carta di credito. Assolutamente sì. che però ha qualche cosa in più. Ha qualcosa in più, cioè ha la possibilità di poter utilizzare, oltre alla tecnologia di contatto, noi siamo partiti con una carta chip, quindi con una carta che ha il massimo della sicurezza a bordo in termini di protezione della transazione, e ha la tecnologia appunto di poter connettersi attraverso l'Ethernet, no? Attraverso la tecnologia RFID. E quindi, diciamo, in questo senso abbiamo potuto utilizzare al meglio, abbinare al meglio sicurezza e velocità di pagamento. Io ho detto che c'è una parola importante da citare, che è il micropagamento. C'è una regolamentazione europea che prevede che i pagamenti fino a 25 euro, sbaglio? Sì, beh, allora questo chiaramente diventa una scelta di business, no? Il fatto di autorizzare al di sotto di 25 euro in modo offline, quindi avere una transazione velocissima, è una scelta evidentemente di assunzione del rischio, no? Dell'autorizzazione alla transazione. Diciamo che oggi come oggi una carta di credito non viene mai usata normalmente, soprattutto in Italia, perché in realtà in altri paesi non è così. In altri paesi una carta viene usata per pagamenti anche di 5-6 euro senza problemi. Poi evidentemente al di sotto di queste soglie il contactless diventa fondamentale per avere una velocità e una flessibilità di azione. In Italia però, dove voglio dire l'utilizzo della carta di credito già è molto più limitato culturalmente, proprio come modo di vivere, facevo l'esempio con alcuni colleghi: in America se uno paga in contanti viene visto con sospetto, perché il contante ha un'origine non certa, no? Mentre invece la carta di credito è un normale modo di pagamento. In Italia fino a pochi anni fa, voglio dire, molto spesso la carta di pagamento veniva usata addirittura come un pretesto per avere lo sconto, no? Per questo, per dire la distanza che c'è stata. Sicuramente con l'euro c'è stato un forte incremento dell'uso delle carte di credito, soprattutto nella grande distribuzione, che hanno visto in questo modo una riduzione dei costi della gestione del contante, soprattutto della moneta, che precedentemente in Italia non c'era. Il salto però per poter gestire con carta o con altre tecnologie, pensiamo anche ai telefonini con la tecnologia NFC, sui micropagamenti è indubbiamente legato al contactless, perché questo veramente riduce il tempo di pagamento, rende più flessibile il pagamento stesso senza dover fare firme, senza dover aspettare lo scontrino, no? E questo è fondamentale. Quindi, se ben capisco, io utilizzo questa carta, la passo sopra ad un POS, si chiamano POS, esattamente gli stessi aggeggi dove digitiamo il PIN quando siamo in un negozio. Questo sistema verifica la carta in un tempo rapidissimo, quindi in un batter d'occhio, senza, lei diceva, offline. Quindi questo vuol dire che il sistema non si collega ad una centrale, non c'è tempo d'attesa di per ottenere un'autorizzazione, certo, eccetera, eccetera. Questo è, diciamo, il segreto per una risposta sotto il secondo. Una transazione online con connessione a larga banda oggi viene autorizzata in un secondo e mezzo, due secondi e mezzo, nelle migliori delle ipotesi. Sì. Una transazione offline invece viene autorizzata praticamente subito, in modalità istantanea. Sì, quindi come che io metta lì un euro, nello stesso tempo utilizzo la carta. Esattamente, la consegna di un euro in manualità è equivalente, diciamo, con una carta. Ecco, uno potrebbe venire il dubbio, ma se io utilizzo una carta di credito o un bancomat con questo sistema, e il sistema è stato ideato per non avere l'autorizzazione dal centro nevralgico, dal cervellone elettronico della banca, potrebbero esserci delle frodi. Certo che sì, però attenzione che il sistema è studiato in una maniera molto, molto attenta da un punto di vista di sicurezza, nel senso che oltre un certo tetto, che possono essere 100 o 200 euro, comunque la carta va a chiedere un'autorizzazione su host, scaricando tutte le transazioni. Questo dà la massima sicurezza che l'importo di frode non possa mai superare un importo appunto minimo. D'altro canto, se noi perdiamo 100 euro, voglio dire, per strada sicuramente difficilmente potremmo avere, no, diciamo, di ritorno una carta. Tenga presente che nei sistemi autorizzativi che noi abbiamo messo a punto, la carta è protetta in una maniera pressoché istantanea, nel senso che ad ogni pagamento autorizzato online c'è un SMS che viene inviato direttamente al titolare carta sul cellulare, e una transazione sospetta o una posizione, diciamo, che individua delle problematicità scatena automaticamente, oltre all'SMS chiaramente con cui l'utente può verificare se effettivamente è lui che ha fatto il pagamento, ma scatena una chiamata del nostro call center di fraud management al titolare carta per verificare l'autenticità. Quindi sì, probabilmente fra 5-10 anni non ci porremo nemmeno più problema, perché la nostra abitudine sarà forse pagare tranquillamente con carta, forse nemmeno più con le carte, chi lo sa, magari con solo telefonino oppure con la nostra impronta digitale. Ma qui credo che ne vedremo delle belle, come si dice, nel senso che la tecnologia ha veramente uno spazio di evoluzione e utilizzo enorme. In questo momento la tecnologia contactless è stabilizzata, quindi diciamo il fatto di poterla usare su larga scala è una, quindi è un prodotto che funziona. È un prodotto che funziona ed è un prodotto utilizzabile in produzione senza problemi. Stiamo parlando di un'esperienza interessante per il futuro dei pagamenti, che è partita da qualche giorno tra le Marche e la Romagna. È con noi Fausto Bolognini, amministratore delegato di Quercia Software. Dunque Bolognini, dicevamo poco fa che oramai la tecnologia che viene utilizzata per queste carte è matura, utilizzata già da tempo. Lei ci stava dicendo qualche cosa sul mondo dei telefonini, sulla cosiddetta tecnologia NFC. Sulla tecnologia NFC invece, quindi sulla tecnologia che riguarda il payment con telefonino, che evidentemente apre uno scenario di utilizzo molto vasto, no? Perché ormai il telefonino è diventato un po' come il nostro portafoglio, un qualcosa da cui non ci si slega, perché ci sono le rubriche di indirizzi, ci sono le nostre foto, ci sono dati personali. Beh, è evidente che il cellulare può diventare veramente un elemento pervasivo di utilizzo. Qui la tecnologia come standard si sta consolidando. Credo che nell'arco di un anno e mezzo dovremmo avere una stabilizzazione degli standard e soprattutto una stabilizzazione della produzione dei modelli, che dovrebbero, appunto, oggi sono pochi modelli utilizzati su scala non industriale, non a grandi volumi, prodotti da Motorola o da Nokia, ma in futuro tutti i cellulari avranno, come hanno il Bluetooth o altre capacità di connessione, avranno sicuramente anche la tecnologia NFC contactless, e questo permetterà un ulteriore ampliamento dell'utilizzo. Ovviamente crediamo che ci sarà sempre il doppio utilizzo, cioè telefonino e anche carta, perché poi ci sono dei branding di pagamento diversi, ma il cellulare sicuramente darà una fortissima spinta. Lei ha fatto riferimento alla tecnologia NFC, che significa Near Field Communication, cioè comunicazioni a breve distanza. Anche qua stiamo parlando di RFID fondamentalmente. Assolutamente RFID, con però una tecnologia di sicurezza di connessione fra il cellulare, appunto, e i dispositivi esterni, che permetta la massima garanzia di non avere interferenze nella transazione. In questo caso, invece di avvicinare la carta a questo lettore, io avvicino il cellulare. Esattamente, avvicino il cellulare, e il cellulare ha al suo interno nella SIM un certificato che è esattamente equivalente a quello che è sul chip di una carta contactless. Da questo punto di vista ancora delle sperimentazioni non ce ne sono in Italia? Ci sono sperimentazioni all'estero, sono appunto sperimentazioni, quindi non ci sono ancora soluzioni, appunto, come dicevo, di produzione massiva, però sicuramente c'è una logica di pilot, di test sperimentali, che secondo noi porteranno in breve tempo a una forte diffusione. Ovviamente, come tutte le tecnologie, in una fase iniziale la limitatezza della disponibilità sia di carte che di POS in grado di leggere il contactless è una barriera. Però noi siamo convinti che poi, quando nella mentalità comune questo viene percepito come un valore effettivo, si ha una forte diffusione, una forte propagazione. Senta Bolognini, tornando alla sperimentazione che state facendo tra le Marche e la Romagna, lo schema è sempre quello utilizzato per la carta di credito, per il bancomat, cioè l'esercente deve pagare una commissione? Perché immagino che in questo caso io possa utilizzare la carta anche per comprare il quotidiano, per comprare, insomma, cose dal costo molto esiguo, un euro, 50 centesimi, pochi euro. Ecco, però qua immagino che, insomma, le commissioni giochino un ruolo importante. Lei ha toccato subito l'altro punto delicato del micropagamento, che da sempre, no, è stato uno dei punti di criticità, e cioè il costo della transazione di piccolo importo che comunque venga autorizzata online, no? È ovvio che il micropagamento richiede un approccio per cui il costo della transazione sia un costo a percentuale, che quindi non incida in modo significativo sui piccoli importi, altrimenti è evidente che con il costo della transazione magari in alcuni casi potrebbe esaurirsi, no, il margine, o ridursi significativamente il margine. Su questo direi che che la tecnologia però aiuta. Perché dico aiuta? Perché il fatto di fare la transazione offline e quindi di non richiedere tutto il processo autorizzativo, se non diciamo in modo limitato, superare determinati importi, riduce il costo della transazione in modo molto forte. Quindi rispetto ai primi progetti di insuccesso, no, di micropagamenti o di borsellino elettronico, sì, di 5-6 anni fa, abbiamo fatto un salto tecnologico importante. Quindi, se capisco, facciamo l'esempio di, che ne so, del barista che vende le gomme da masticare, le caramelle. Io vado, compro le caramelle, pago un euro, il barista, che, o meglio la macchina del barista, automaticamente chiede l'autorizzazione una volta ogni 100 caramelle vendute, ogni 100 pacchetti di caramelle. Esattamente. Più o meno, insomma, questo è un po'. Il concetto è quello, e tra l'altro con un grosso vantaggio anche per il piccolo esercente, perché a questo punto, essendo le commissioni non proibitive sotto il profilo appunto del costo, però riesce ad evitare il contante e quindi non ha più il problema che, diciamo, magari i piccoli esercenti è importante della rapina piuttosto che non della gestione appunto del contante. E qui credo che veramente la spinta e la consapevolezza di creare valore possa essere veramente un elemento di forte successo. Tra l'altro, una considerazione che faccio è che il contactless in un paese come l'Italia, che è molto, voglio dire, veloce, molto abituato alla comunicazione, quindi anche il cellulare potrebbe essere veramente un elemento vincente, potrebbe essere un'ulteriore spinta all'utilizzo della carta elettronica anche nei pagamenti non micro, proprio perché la flessibilità e la velocità diciamo porta poi a una consuetudine di utilizzo che magari viene appunto utilizzata anche in un contesto più ampio. Sì, bisognerà abituarsi a guardare spesso il proprio conto online, perché con i soldi in tasca ci si accorge ad un certo punto di non averne più e quindi non si spendono più i soldi. Con questo sistema uno magari fatica ad accorgersene, deve spesso controllare quanto ha speso, ma insomma questa è una considerazione. È vero, anche se però posso dire anche in questo senso che la tecnologia aiuta. Per esempio, il fatto di poter avere l'estratto conto oppure diciamo via SMS l'indicazione degli importi spesi, e queste sono funzionalità che si vanno attivando, dà una sensazione anche al titolare non solo di una sicurezza rispetto alla frode, perché è evidente che se io sono in Italia e mi viene registrato un pagamento in Romania, capisco che c'è qualcosa che non va, no? Ma è anche molto utile sotto il profilo del controllo della spesa, perché in realtà non ho più neanche il bisogno di fare una verifica dell'estratto conto su internet, perché l'aggiornamento su certe soglie mi viene dato automaticamente via SMS o via mail. Senta, i gestori di telefonia mobile si stanno in qualche modo attivando, muovendo, oppure sono poco interessati? Perché su alcune cose, più che poco interessati, sono molto attenti a non aprire il mercato. Beh, intanto, come lei probabilmente sa, con SEPA diciamo dal primo di novembre del 2009 SEPA è il sistema di pagamento europeo. Esatto, ci sarà una liberalizzazione delle payment institution, quindi anche società non bancarie potranno gestire sistemi autorizzativi di pagamento issuing acquiring. Quindi questo apre sicuramente degli scenari. Sicuramente le compagnie telefoniche sono molto attente all'utilizzo dei pagamenti, e infatti la diffusione della tecnologia mobile è fortemente legata anche dalle politiche che faranno le compagnie telefoniche in questo senso, se appunto decideranno di entrare nel mondo dei pagamenti o meno. È ovvio che le compagnie telefoniche fino ad oggi sono state più portate da una prudenza, no, rispetto a questi aspetti, anche perché quello che hanno visto è che molto spesso a parte che ci sono dei vincoli normativi, ma insomma usare il tetto diciamo presente nel proprio telefono per altri pagamenti poi riduce anche la capacità di spesa sul mobile. La situazione, diciamo, le problematiche anche dal punto di vista di commerciale sono complesse. Sì. Siamo comunque convinti che poi l'ampiezza del mercato favorirà tutti. Bene, Bolognini, io la ringrazio per essere stato con noi. Sicuramente il suo lavoro, insomma, il suo ruolo anche all'interno di Querce Software le riserverà delle sorprese, perché immagino, insomma, questo sia un mercato piuttosto effervescente. Molto effervescente, sicuramente. Quindi, insomma, ci sarà magari modo di risentirci per altre novità. Grazie e buon lavoro, a presto. Grazie a voi. Bentornati alla seconda parte di 2024, vi ricordo che il nostro programma è disponibile anche online su www.radio24.it. Da lunedì pomeriggio trovate il file MP3 della nostra trasmissione e come sempre vi consigliamo di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast per scaricare automaticamente o manualmente la trasmissione settimana dopo settimana, così che possa essere riascoltata quando volete, soprattutto anche attraverso lo strumento che desiderate: il computer, il lettore di file MP3, un CD che poi si suona sull'autoradio. Insomma, ci sono varie modalità e molte idee che hanno i nostri ascoltatori che ci scrivono. Anzi, io ringrazio tutti coloro che ci scrivono settimana dopo settimana. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, quindi 2024, è radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, la nostra seconda parte è dedicata tra poco ai netbooks, ma partiamo da una notizia che arriva dalla Corte di Cassazione che riguarda il dibattito sulla libertà di espressione in rete. Questa settimana appunto non c'è solo il dibattito online, c'è anche questa decisione. La Cassazione è intervenuta chiarendo cosa sono e quali obblighi devono o non devono avere i forum oppure i siti di social network, i blogs. Sentiamo Beatrice Dalia. Gli spazi comunicativi sul web non sono giornali e quindi possono essere sequestrati senza i paletti previsti dalla Costituzione a protezione della libertà di stampa. La Cassazione ha chiarito, forse per la prima volta con tanta completezza, che i messaggi lasciati su forum di discussione online, visibili a tutti o solo a soggetti registrati, sono equiparabili ai messaggi che si lasciano in una bacheca esposta al pubblico. Sono sì mezzi di comunicazione del proprio pensiero o di comunicazione di informazioni, ma non entrano solo in quanto tali nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio. Dunque, per la Cassazione, estendere a tutte le forme di comunicazione virtuale la tutela prevista per l'editoria non è il modo giusto di adeguare la Carta Costituzionale alle nuove tecnologie. E questa sicuramente può essere, speriamo lo sia, un'indicazione utile anche ai politici che nelle ultime settimane stanno estraendo dal cilindro vari emendamenti, varie proposte di legge, disegni di legge su internet, su quello che viene chiamato diritto di espressione, libertà di espressione in rete. Online trovate moltissime informazioni, un dibattito molto ricco, e questo è positivo. Per quanto riguarda questa decisione, per molti utilizzatori della rete, anche per alcuni esperti, si tratta di una buona notizia, perché ad esempio per i blog non ci sarà così l'obbligo di registrazione al tribunale, non dovranno avere un direttore responsabile, cioè il blogger non può essere equiparato ad un direttore, quindi non ha ad esempio l'obbligo di controllo di quanto pubblicato dai commentatori sul proprio blog. Quindi per molti questa è una buona notizia. Le vendite di smartphone registreranno un'impennata del, pensate, 28% nel 2009, dopo che la crescita è rallentata al 3,7% nel quarto trimestre dello scorso anno. Secondo Gartner ci sarà quindi una forte ripresa di questo segmento a fronte di una diminuzione del 10% nelle vendite totali di telefonini. Quindi gli smartphone, come sapete, sono una fetta molto piccola. Sempre secondo Gartner, lo scorso anno ne sono stati venduti 140 milioni. A fronte di un mercato della telefonia invece che ha superato il 1,3 miliardi. La settimana scorsa la società di ricerche Informa aveva previsto una crescita addirittura del 35% nella vendita di smartphone nel 2009, quindi entrambe le società comunque prevedono un forte incremento. C'è un altro settore in forte crescita, cioè, tra l'altro un settore che non è molto distante dal mondo degli smartphone, cioè quello dei netbooks, i piccoli computer portatili che stanno avendo un grande successo, tra l'altro un successo per alcuni inaspettato. Saluto Luca Figini, che guida la redazione di Netbook, una rivista dedicata proprio a questo, chiamiamolo, fenomeno, a questo nuovo prodotto. Luca, benvenuto a 2024. Grazie. Netbook, Luca, già dal nome capiamo che c'è un richiamo al mondo dei notebook, ma proprio la differenza, insomma, ci segnala qualche diversità. Quindi vogliamo parlare delle differenze tra i notebook e i netbook. Vorrei anche capire da dove arriva, se c'è stata un'azienda che si è inventata questo nome oppure è stato un nome che è nato dal mercato. Mercato, tra l'altro, che direi, correggimi se sbaglio, è ormai un mercato maturo. Assolutamente maturo, anzi sta maturando in maniera velocissima da un anno all'altro, anzi da un mese all'altro. Stranamente netbook è una di quelle parole che, su cui convergono due traiettorie diverse che portano la stessa stringa, diciamo, letteraria. Nel senso, netbook, nell'accezione attuale, è la combinazione di net, che significa rete, e di book, che sta indicando qualcosa di compatto, tant'è che in inglese significa, in italiano dall'inglese significa libro, quindi è un oggetto di rete piccolo, compatto, che somiglia a un libro. Però netbook anche, è stato anche un marchio detenuto dall'americana Psion, che aveva prodotto questo piccolissimo simil portatile per usi specifici, basato su una piattaforma non Windows, poteva essere Windows, Linux o Symbian, e che aveva questa forma molto piccolina. È stata una sorta di antenato. Sì, di questi quanti anni fa? Nei primi 2000, tant'è che la produzione è terminata da tipo 3-4 anni almeno. Ci avevano visto lungo e avevano capito un trend di mercato, però forse sono arrivati troppo presto per approfittare anche delle tecnologie che poi hanno favorito l'esplosione di questo mercato. In realtà ci hanno visto lunghissimo e l'avevano prodotto con le tecnologie che erano allora disponibili, che quindi erano molto meno potenti di quelle attuali, però basta guardare le foto per prendersi conto che sono molto simili a quelle attuali. Non a caso Psion sta cercando di farsi rivalere sul brevetto, sull'uso del marchio, anche se è scritto in modo diverso. E comunque netbook oramai non è più legato a un singolo prodotto, ma è legato a una categoria di prodotti. Una categoria di prodotti che nel 2008 ha avuto un'esplosione enorme e che si è affermata a sé stante, quindi non più un solo sì, oggetto, ma tanti. Sì, diciamo che se oggi una persona dice ho comprato un netbook, vorrei comprare un netbook, si riferisce ad un prodotto particolare, un po' come ormai se uno dice voglio comprare uno smartphone, dice una cosa precisa, non è un telefonino tradizionale, ma è un telefonino particolare con tutta una serie di caratteristiche di cui abbiamo ampiamente parlato nel 2024. Oggi vogliamo appunto parlare dei netbook. Luca, se volessimo capire come distinguere i netbook dai notebook, cioè questi piccoli computer dai portatili normali tradizionali, quali sono le 3-4 differenze principali, sono quelle più evidenti? Ma te ne cito alcune, perché anche qui i confini stanno un po' restringendo, allargando, sì, a seconda di quello che vogliono fare i produttori. Diciamo che principalmente il netbook ha una piattaforma, un processore completamente dedicato, che è differente da quello dei notebook normali. Sì. È leggermente meno potente, però consuma anche meno, per cui la batteria dura di più, e questa è un'altra prerogativa dei netbook. Sono fortemente legati alla navigazione web. Hanno dei display di piccole dimensioni. Per il momento il limite massimo accettabile dai produttori è quello di 10 pollici, quindi tra i 7 e i 10 pollici, che sono circa 26 centimetri di diagonale, proprio un display piccolino. Sì, molto piccolo, sì. Già abbastanza piccolo. Però secondo me già quest'anno questo limite strutturale verrà portato a 12 pollici, perché i 7 pollici sono stati appena abbandonati, quindi i 10 diventano il mercato di massa e 12 pollici deve diventare in qualche modo la prossima fascia alta. I netbook poi hanno la prerogativa di avere una tastiera fisica, quindi assomigliano a dei portatili. Infatti per quello che molte volte vengono confusi con portatili, perché il design è molto simile. Sì. In realtà c'è un'altra categoria che non fa parte dei netbook, ma fa parte del sottogruppo degli ultra portatili, che sono i mid. Che è un famosi nome, mid, i famosi mid, sigla che sta a indicare mobile internet device, ovvero sono quei dispositivi studiati per navigare in internet. Che non hanno una tastiera. Non hanno una tastiera, e questa è la principale differenza con i netbook, nel senso che i mid hanno uno schermo touchscreen. Possono avere lo stesso sistema operativo, la stessa architettura dei netbook, ma sono privi di tastiera fisica. Di solito ci hanno visualizzata sul display. Poi direi un'altra caratteristica è il prezzo, perché i netbook sono noti e si sono anche affermati grazie a prezzi sicuramente molto competitivi. Stiamo parlando insomma di 200-300 euro. Stiamo parlando dei netbook a 2024. La prossima settimana vi ricordo che parleremo di cinema digitale, tra le altre cose di cui parleremo a 2024, anche dell'arrivo di un nuovo dominio su internet, il .tel. Nelle prossime settimane ci sono tra l'altro anche altre novità che riguardano il mondo della telefonia mobile, con l'arrivo di Android, del nuovo telefono dedicato a Google, quindi il G2 anche in Italia. Questi sono temi di cui parleremo nelle prossime puntate di 2024 con vari ospiti. Adesso ci occupiamo di netbook, con noi Luca Figini, che cura la realizzazione di una rivista che si chiama proprio così, quindi dedicata proprio a questo segmento di mercato. Dunque, dicevo che una delle caratteristiche, Luca, è il prezzo di questi prodotti, perché qua stiamo parlando di cose che partono da 199? Dai 199 ai 599, anche se in realtà si arriva fino a 1000. Nel modello più spinto in assoluto arrivi a 1000 e superi anche i 1000 euro. Però diciamo che il low cost, la loro anima low cost, è quella che li distingue rispetto ai notebook principali. Sì, anche perché un computer portatile a 199 o 299 non si trova, insomma. Si trovano a 3,99, 4,99 con Linux, un po' depotenziati, ma... Senti, tu hai detto che qua siamo in presenza di prodotti che hanno una architettura, si dice in gergo, quindi un processore, una serie di tecnologie, se non completamente diverse, comunque dedicate. Ecco, quali sono le differenze, anche per capire poi quando uno va a comprarli, che cosa trova? Oltre al display che abbiamo già detto, il processore. Il processore, ci sono i processori studiati appositamente per essere integrati nei netbook, perché consumano molto meno dei processori tradizionali per notebook o per PC. Si parla di 2 watt massima potenza, che è pochissimo, e quindi sono meno esosi in fatto di energia elettrica e la batteria dura di più. Questi processori si chiamano Intel Atom. Sì, diciamo che Intel ha lanciato questo processore pensando proprio a questo mercato. Poi adesso Intel ha detto che è interessata anche al mondo degli smartphone, e qua si vedono le differenze con il mercato dei PC, dove Intel domina con percentuali di mercato a volte imbarazzanti, e nel mercato degli smartphone, dei telefonini, abbiamo già detto che invece il leader del mercato, comunque l'architettura leader, era ARM, e quindi insomma vediamo che ci sono delle differenze. Un'altra differenza che tu hai citato è quella del sistema operativo. Qua non c'è solo Windows. Assolutamente, i netbook riprendono il mazzo di carte del mercato e distribuiscono le carte in maniera omogenea fra tutti gli operatori, nel senso che non è più Windows che ha il monopolio su questi prodotti, ma Linux è entrata prepotentemente, sia perché costa molto meno di Windows, addirittura è gratuito in certe sue distribuzioni. Nel senso, devo far pagare 199 esatto, prodotti, da qualche parte devo comunque recuperare, sia perché ottimizza meglio l'hardware in questa fase, nel senso che Microsoft non si aspettava un'esplosione di questa piattaforma, e quindi è arrivata un po' impreparata, non ha un sistema operativo adatto per poter funzionare. Windows XP è la scelta attualmente ideale per poter sfruttare al massimo l'hardware presente nel netbook. Vista non è affatto un sistema operativo adatto per questa piattaforma. XP è quello che più si avvicina. La vera soluzione definitiva di Microsoft per i netbook sarà Windows 7. Quindi parliamo del prossimo anno? Fine 2009, ma è già una previsione ottimistica, 2010 inoltrato. Sì, poi sappiamo insomma che nei primi mesi di vita dei sistemi operativi c'è sempre qualche problema, non solo naturalmente per la Microsoft, ma quindi diciamo che Windows 7 arriverà nel prossimo anno. Tra l'altro Windows 7, lo abbiamo anche già ricordato, e tu ci hai detto che Vista in questo caso insomma è un po' lento su questi computer. Dicevo, Windows 7 è anche un po' una conferma dei problemi che Vista ha presentato, cioè l'accelerazione dell'uscita di Windows 7 da parte di Microsoft di fatto conferma i problemi che ci sono su Vista. Quindi XP oppure Linux, mi sembra di capire, siano i due sistemi operativi per i netbooks. Questi sono quelli due attuali. Sta arrivando Android. Ah, interessante questa cosa. Sta arrivando Android, che metterà anche un po' di confusione nelle carte distribuite. Un sistema operativo pensato per gli smartphone arriverà presto anche nei netbook. Diciamo che è un sistema operativo che è nato volutamente prima sugli smartphone, ma che non è nato specificatamente per gli smartphone. Ah, interessante. È un progetto di Google per rendere mobile i suoi servizi. Si è servito di Linux e ha creato Android. Ci sono già delle previsioni, cioè tu sai già che ne so, a settembre arriverà un prodotto di questo tipo oppure no, non ancora? Secondo me in autunno potremmo già vedere qualcosa. So che Asus, per esempio, sta lavorando alacremente per poter sviluppare il primo netbook e poter proporre il primo netbook con Android. Non è un segreto. Android sarà la reale conferma che Linux è la piattaforma in questo momento per i netbook. perché di fatto è basato su Linux. Sì, sì, tra l'altro c'è un grosso movimento verso Android da parte dei produttori di smartphone e non è escluso, appunto, come tu dici, che ci sia anche per i netbooks, per forse vedere cose interessanti anche nel mondo dei notebook tradizionali. Non è un segreto che molti produttori di hardware, se non tutti i produttori di computer, si lamentano perché devono dare troppi soldi a Microsoft e quindi, insomma, Linux e tutto quello che gira su Linux o comunque che è parente di questa piattaforma può essere interessante. Tu, Luca, hai detto che abbiamo assistito nell'ultimo anno ad una esplosione di questo mercato. Tra l'altro, ultimi dati di vendite dei PC, che comprendono anche i netbook, ci dicono che fondamentalmente il mercato è sostenuto dalle vendite dei netbooks. Qualche numero per capire quanto esplosivo è questo mercato? Allora, solo nel 2008, vale dire in 12 mesi di esistenza dei netbook, sono stati venduti circa 12 milioni di unità. Già per quest'anno, nel 2009, sono previste un numero di unità triplicato, almeno triplicato. Per fare qualche paragone, sul mercato di smartphone o dei cellulari non si vedeva un risultato di questo tipo dai primi anni 2000. Sì, sì, soprattutto in termini di crescita, non tanto in termini di crescita. Sì, perché quando parliamo, lo ricordiamo agli ascoltatori, quando parliamo del mercato degli smartphone parliamo di un mercato da 150 milioni di pezzi all'anno, per i telefonini non ne parliamo, 1,3 miliardi, adesso forse quest'anno caliamo un pochettino, ma comunque siamo su questi numeri. Senti, c'è una tipologia di cliente al quale questi prodotti sono rivolti? Poi magari diciamo anche le nostre preferenze. Ad esempio, io sono ancora del partito di quelli che preferiscono il notebook, cioè il computer portatile tradizionale, magari leggero e piccolo, che si avvicina alle caratteristiche di questi prodotti. Ecco, c'è una clientela ideale? Guarda, mi trovi completamente d'accordo, nel senso che io sono un fan del notebook piccolo e leggero. Sì. Ed è per questo che i netbook hanno successo. Nel senso che sono dei piccoli computer, piccoli e leggeri, su cui ci fai tutto quello che vuoi, o quasi, nel senso, sì, non puoi, certo, farci giochi 3D o multimedia, però puoi farci tantissime cose, sì, e costano veramente poco. È per questo che sono il computer dedicato a tutti. Diciamo dai 15-16 anni, quindi alle scuole superiori, fino ai cent'anni, fino, sì, fino a quando uno puoi comprartelo, di, insomma, sì, sì. Diciamo che ma uomini e donne è indifferente. Anzi, le donne sono molto, le ragazze sono molto interessate ai netbook perché sono piccoli, te li porti in borsa, hanno la webcam. Sono anche fashion, come sono, si dice. Sono, sì, anche fashion, devono essere fashion. Però quali sono le differenze con il notebook? Cioè, perché comunque il notebook rimane il computer con la C maiuscola? Allora, per farti un esempio, nel segmento portatile, insomma. Per farti un esempio, secondo me fra qualche anno si vedrà un mercato di questo tipo. I desktop saranno relegati a una piccola fascia di nicchia. Sì, già adesso vediamo qualche segnale. Sui videogiocatori, magari all'interno delle aziende, delle grosse imprese, eccetera. Quello che è in casa è il desktop, la funzione del desktop verrà sostituita dal notebook tradizionale come lo conosciamo. Il notebook che noi usiamo oggi sarà il netbook del futuro. Quindi il notebook sarà il desktop di casa. Il netbook, capito, sarà l'oggetto che tu ti porti in giro come fai adesso. Quindi il computer portatile come lo conosciamo oggi sostituirà il computer di casa. Esattamente. E magari diventerà un computer trasportabile che pesa ancora un pochettino, eccetera, eccetera. Quindi il computer portatile del futuro sarà il netbook. Il netbook. Costerà poco, sarà un secondo, se non addirittura un terzo computer da dare al figlio, da dare alla moglie, da portarsi in ufficio, quello che vuoi, però sarà questo un po' il Senti, l'ecosistema. Ad oggi, se uno deve andare in negozio a comprare o comunque se va online e compra online, cosa che noi insomma preferiamo a volte, quali sono le differenze? Cioè oggi c'è qualche consiglio che possiamo dare? Se dovete fare certe cose, non comprate il netbook perché ancora magari siamo potenze limitate del processore, eccetera, eccetera. Allora, il netbook è perfetto per lavorare, per navigare, per guardarsi un film. Non si può pretendere allo stato attuale di chiedere a un netbook di fare editing video o di giocare con i giochi 3D di ultima generazione, perché non è ancora pronto. Lo sarà pronto magari entro la fine dell'anno con l'introduzione di chip 3D, ma non è ancora il suo ambito. Il suo ambito è navigazione, produttività e multimedia non eccessivamente spinto. Quindi diciamo che sono una vera alternativa al computer portatile, fino ad un certo punto finché non ti spingi sulle applicazioni che chiedono veramente della potenza pura, perché il processore che c'è all'interno del netbook è potente a sufficienza per fornirti le funzioni necessarie per tutte queste applicazioni, non ha potenza da vendere come può essere il processore per notebook o per desktop. Consigli per gli acquisti? Innanzitutto capire quali sono le proprie esigenze, fondamentalmente. Cosa devo fare? Sì. Dopodiché stabilire un budget di spesa, perché realmente si trovano da 199 a 1000 e passa euro, quindi stabilire quanto si vuole spendere. Diciamo che un budget di spesa tra i 2,99 e i 3,99, che sono 100 euro, e nel campo dei netbook sono tantissime, perché si passa veramente da modelli con poco disco fisso o con tantissima capacità di memorizzazione o con wifi e bluetooth, a modelli che sono proprio il minimo sindacale per poterci lavorare, per cui stabilire qual è il budget di spesa, a quel punto affidarsi a una marca già presente nel campo dei PC, semplicemente perché ti fornisce un'assistenza post vendita e ti fornisce i driver. Ecco, i driver sono gli strumenti che poi ci permettono di installare un altro sistema operativo. Perfetto. E ancora prima di scegliere il netbook, verificare se effettivamente hai bisogno di un sistema operativo Windows o Linux, perché non è vero che Windows è uguale a Linux e viceversa. Possono avere l'aspetto grafico uguale, ma poi le applicazioni per Windows non funzionano su Linux se non tramite software da smanettoni. Quindi questa è una cosa che va curata all'inizio, prima dell'acquisto, perché è vero che modelli con Linux costano anche 50 e 80 euro di meno rispetto a quelli con Windows, però poi si è legati al mondo Linux. Si trovano applicazioni equivalenti a quelle Windows, ma è un po' laborioso poi utilizzarle. Certo. Quindi, e comunque non è nemmeno vero che Linux offre meno rispetto a Windows. Assolutamente no. Lo offre assolutamente affidabile e ottimo. Lo offre in modo diverso, quindi questa è una cosa che bisogna essere consci. Consigli per gli acquisti, secondo me un display da almeno 8 pollici, se non da 10, che è ancora meglio, che è oltretutto il futuro di questi netbook. Una tastiera comoda. La tastiera è l'attributo fondamentale dei netbook, perché si trovano tasti piccoli, scomodi. Se bisogna scrivere tanto, se bisogna mandare tante mail, se bisogna stare molto su Facebook, che prevede tanta messaggistica, se bisogna chattare, la tastiera comoda è fondamentale. Sì. Senti, hanno tutto dal punto di vista, che so, di connessioni wifi o altro tipo di connessioni, le porte che sono importanti nei computer normali, quindi se io magari ho una, che ne so, l'altro giorno ho estratto una schedina SD da una macchina fotografica, l'ho inserita nel mio computer che ha una porta che legge le schedine SD. Hanno gran parte delle connessioni che si trovano sul portatile tradizionale, hanno almeno due o tre porte USB, hanno il jack audio per collegare le cuffie, il microfono per chattare, hanno il wifi. Quindi tutti, diciamo, hanno la dotazione di base è abbastanza buona. Quello che può essere accessorio è il bluetooth. A volte, se ne hai bisogno, lo trovi su alcuni modelli, ma non lo trovi su tutti. Sì. Senti, hai detto prima delle marche. Qua va detto che non tutte le marche di computer tradizionali hanno lanciato una linea di netbook. No, non, quasi tutte, ma non tutte. Possiamo citare i marchi? Beh, Asus mi sembra ha lanciato un po' il mercato, giusto? Asus è quella che ha aperto completamente il mercato ed è quella che tuttora ha un ritmo di innovazione più accelerato rispetto alle altre. La famiglia EPC, quella della AAA, è un nome impronunciabile in Italia, è assolutamente quella più affermata e più diffusa. Acer ha delle ottime alternative con gli Aspire One. Il rapporto prezzo-prestazione di Aspire One è invidiabile assolutamente. Un'altra, MSI ha dei prodotti che sono molto validi, soprattutto il modello in commercio L120 è l'unico sotto i 400 euro ad avere il modem UMTS integrato, vale a dire che io posso inserire la mia SIM telefonica e sono online su rete cellulare se non trovo la rete wifi. Sony è quella che in questo momento probabilmente ha trovato il miglior netbook, in senso lato del termine, che c'è sul mercato, perché è piccolo, compatto, pesa poco più di mezzo chilo, però il costo assolutamente da fascia altissima, cioè quindi quanto costa? Siamo almeno 1000 euro per il modello d'ingresso fino a 1400, circa 1500 euro per il modello di fascia alta. Per carità, è bellissimo. Certo, qua vale la stessa regola che vale per gli smartphone. Chi vuole il telefono da mostrare, ma non solo da mostrare, perché poi ha anche delle caratteristiche tecnologiche all'avanguardia, può sfoggiare questo prodotto, che è molto bello. Insomma, poi se uno guarda su Netbook, che come dicevo Luca Figini cura ogni mese, c'è una carrellata di prodotti con anche tutte le caratteristiche, prezzi eccetera eccetera. Luca, ti ringrazio per essere stato con noi in questa puntata. Naturalmente in questo mercato ci sono molte novità. Tu quanti netbook provi in un mese, così a spanne? Una dozzina, però divertenti, di certo, sicuro. Certo. Grazie e buon lavoro, a presto. Grazie a voi, buona giornata. E così concludiamo questa puntata di 2024. Grazie a Luigi Borghi in redazione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, quindi scritto in cifra. Io sono Enrico Pagliarini, vi ringrazio per averci ascoltato, per la vostra attenzione, e vi ricordo che ci trovate anche online. È possibile dal lunedì pomeriggio scaricare il file MP3 della nostra trasmissione. Trovate sul nostro sito, nelle pagine di 2024, tutte le informazioni, e in modo particolare nella sezione podcast. Ci sentiamo la prossima settimana, sempre su Radio 24, nel pomeriggio del sabato, tra le 15.30 e le 16.30. Un buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.